assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, non vedi il resto. Vuoi sentire sempre le solite quattro stronzate, preparate per persone addomesticate, che non vedono l'ora di andare a votare, l'uomo forte che le cose potrà cambiare. Assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, non vedi questo. Non ti accorgi se tanto non cambia niente, le fabbriche chiudono, la gente indifferente, si alzano muri, l'umanità è assente, un nuovo dittatore sa quello che vuole la gente, il nemico è più povero fuori ai nostri confini, tu più forti e sai, non ci sono donne e bambini, che continuano ad esserci privilegiati e desodati, ma l'unico problema sono gli immigrati. Rassicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, rassicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, rassicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, rassicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, non vedi il resto. Non contano nulla, inquinamento e gli animali, non è importante la salute, chiude un occhio su malaffari, conta solo il consenso in questi tempi duri, arrivano i buoni, gli onesti, volontari e i puri, hanno un capitano coraggioso che vi difende, vuole fermarvi quando uscite tra la gente. Assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo, assicurato, ti basta questo, ti chiedi questo.